Abbiamo degli ospiti in studio, Alberto Ferraro, intanto benvenuto a Radio Onda Rossa su queste frequenze. Ci siamo incontrati poco fa, prima del radioteatro, prima dell'inizio del radioteatro. Mi avevi parlato di quanto sta avvenendo per il Freedom Theater. Allora ci spostiamo in Palestina e parliamo un po' di questa esperienza. Lo fai tu, sì. Presentacela tu questa esperienza. Allora, intanto vi ringrazio per la possibilità che mi avete dato di denunciare questa cosa gravissima. Succede fondamentalmente questo: a Jenin, nel campo rifugiati in nord della Palestina, c'è un teatro che opera dal 1989 per opera di Arna Mer Khamis, che è la fondatrice di questo movimento culturale, che si occupa di riabilitare psichicamente e socialmente le persone con il teatro, quindi facendo il teatro uno strumento forte di cultura e di disgregazione completamente di tutti gli equilibri che ci sono nella ingarbugliata situazione palestinese. Questo teatro ha una storia triste, perché è stato ovviamente sempre tenuto sotto controllo e più volte, insomma, ha subito degli attacchi dall'89 in poi, senza tener conto del fatto che nella seconda intifada del 2001-2002 c'è stata la rasa al suolo completa di questo teatro. Questo teatro, nonostante tutto, ogni volta rinasce e ricresce, fino a quello che è successo il 6 giugno. Un mio carissimo amico, collaboratore, che ho incontrato in Francia l'anno scorso, Nabil Al-Rahi, che è il direttore artistico odierno del teatro, del Freedom Theater di Jenin, è stato arrestato in casa sua alle 3:20 del mattino dall'esercito israeliano, che senza nessun tipo di giustificazione lo ha portato via. A tuttora non è stato permesso a Nabil di parlare né con l'avvocato, e chiaramente di non poter avere nessun contatto con la famiglia. Nei suoi confronti non è stato chiarificato qual è il capo di imputazione. La cosa strana è che giovedì subirà un processo militare, quindi si tratta di qualcosa che ha a che fare con l'assassinio di Giuliano Mer Khamis, che è il figlio di Arna, che è stato assassinato esattamente il 15 aprile dell'anno scorso. Ed essendo per metà palestinese e per metà israeliano, è chiaro che tutto si concentra a livello politico, ma è fondamentalmente una scusa per poter togliere dall'attivismo tutte queste persone che stanno veramente facendo delle cose incredibili. Io vi sollecito ad andare a guardare su YouTube al link Freedom Theater, a collegarvi sul loro sito per vedere che cosa effettivamente fanno. E poi ho chiesto la vostra collaborazione per sensibilizzare ad una petizione. In realtà sono due: una è partita dal Portogallo, perché dal Portogallo viene la moglie di Nabil, che è Micaela Miranda, che è un'attrice anche lei, che lavora fianco a fianco del marito, e dal Portogallo è partita questa petizione su avaz.org. Noi dall'Italia ci siamo mossi per un'altra petizione, sì. E quindi potete facilmente trovarla in internet. Ecco, quello che vi chiedo è veramente cercare di far rumore il più possibile, perché ci si scontra con delle realtà che sono molto lontane da noi. Delle volte ci sentiamo addirittura forse non all'altezza, no? Perché sì. Io sono in contatto con la delegazione palestinese, che mi ha detto, la prima cosa che mi ha detto: sapessi quante segnalazioni ogni giorno vengono fatte di queste cose. E soprattutto se si pensa che nella stessa settimana in cui Nabil è stato arrestato, sono state arrestate quasi 250 persone. Tra l'altro tutto questo avviene in piena campagna dei detenuti palestinesi, che hanno attuato e stanno continuando ad attuare uno sciopero della fame. Sì, ci sono delle persone che si stanno lasciando morire, ma fondamentalmente i metodi barbari e senza nessun tipo di contraddittorio che vengono attuati sono la dimostrazione palese che oggi più che mai la cultura è la cosa che fa più paura. È l'unica arma con la quale si può ancora combattere, ma che effettivamente è la più difficile da dissipare, no? Faccio un esempio: sono in contatto tutti i giorni con i ragazzi del Freedom Theater che stanno preparando Animal Farm, e continuano a lavorare giorno per giorno, cioè non smettono di fare le prove, perché sanno che hanno, sì, colto un messaggio. Quindi, sì, ecco la cosa, diciamo, in tutta questa storia la cosa più positiva è che comunque non sono riusciti a fermarli, non succederà mai. Certo. Tra l'altro il Freedom Theater è un'esperienza che ha un respiro internazionale, sì, ha contatti un po' in tutto il mondo, sì, e si muove anche. L'anno scorso il Freedom Theater, grazie ad un'organizzazione umanitaria francese, parigina, che si sta muovendo anche adesso, ha portato in giro il suo penultimo spettacolo, che è Shokam, che vuol dire che cos'altro, che si basa semplicemente sulla vita di questi ragazzi nei campi rifugiati, quali sono le loro speranze, i loro orrori, i loro incubi. E questo spettacolo ha fatto il giro dell'Europa. Sono stati in Francia, dove io ho conosciuto Nabil e tutto il gruppo, sono stati in Germania, sono stati in Olanda, sono stati un po' dappertutto, sono ritornati nel loro paese, e questa cosa già all'epoca faceva molto rumore. Immaginatevi adesso, è chiaro che la prima occasione che hanno avuto per poter fare per poter mettere le mani sul problema, lo hanno fatto. Insomma, hanno preso questa persona alle 3:20 in casa con la moglie e la bambina di 2 anni che sono rimaste lì senza sapere che cosa possono fare, che cosa devono fare. Senti, le prossime scadenze, se ci sono delle scadenze pubbliche da lanciare, possiamo già farlo. Sì, in realtà le uniche due, noi stiamo cercando di rivolgerci a più enti possibili, a sì. più situazioni possibili per poter diffondere questa cosa e per poter anche lanciare eventualmente un'iniziativa comune. Sì. Non ci sono scadenze tranne la necessità vitale proprio di firmare queste petizioni, cercatele in internet per favore, è molto molto semplice, oppure andate sulla, se avete Facebook, abbiamo dovuto riattivare anche Facebook perché è certo. un contatto, se andate lì c'è la pagina del Freedom Theater, ma oltre a questo c'è un gruppo che si chiama Freedom for Nabil and Zakaria, che è un altro componente del Freedom Theater del quale se ne parla sempre poco, ma che è in carcere dal 15 maggio e pensate non ha ancora avuto il diritto ad un contraddittorio con il proprio avvocato, per cui insomma Nabil ha comunque un gruppo di persone che l'hanno conosciuto in Europa, che hanno apprezzato quello che fa, che stanno lavorando per lui. Noi cerchiamo di aiutare anche Zakaria perché comunque è l'unico modo che abbiamo per diffondere questa cosa. Al di là delle scadenze, chiediamo a tutti, magari anche di mettersi in contatto con voi se è possibile fare questa cosa, di poter organizzare una manifestazione, un evento, chiediamo al Teatro Valle se ci può mettere a disposizione il palco per una sera, possiamo proiettare un film che ha fatto la fondatrice di questo, che ha fatto Giuliano in onore della madre, la fondatrice di questo teatro, è molto molto molto bello, si chiama Arna's Children, che potete trovare anche in internet, si potrebbe, non lo so, organizzare una serata di dibattito, qualcosa. Io penso che chi fa arte o comunque chi si occupa di arte, ma in generale chi ha una sensibilità che è il minimo comune denominatore di una società nuova, deve prendere coscienza di questo problema. Cercate di darci una mano. Sì, sì, sì. Senti, attualmente quanti sono gli appartenenti al Freedom Theater detenuti nelle carceri israeliane? Parliamo di una, credo, di una ventina di persone. Io in realtà, appunto, conosco personalmente e profondamente questa realtà, ma da non più di un anno. Sta nascendo un progetto di collaborazione insomma tra me e Nabil, era nell'aria questa cosa, adesso sarà insomma è tutto chiaramente rimandato a quando speriamo tornerà molto presto, ma in generale ci sono più di 20 persone che durante la carriera artistica del Freedom Theater sono state bloccate, alcune chiaramente sono ancora dentro, altre sono uscite e sono entrate. La cosa più importante per loro è quella di creare il disordine e quindi ogni tanto li portano in carcere e poi li rilasciano, ma andate veramente a vederlo su internet, questi ragazzi fanno delle performance vestiti da clown a fianco all'esercito, cioè cercano di portare un messaggio altro e ci vuole coraggio, sono ragazzi dai 19 ai 22 anni, se pensiamo alle nostre generazioni, insomma io ho 36 anni sì. e sinceramente non posso neanche immaginare quale possa essere lo stato d'animo di queste persone. Si vede, lo si capisce dal tipo di arte che fanno, che ha una qualità drammatica enorme, perché comunicano quello che sentono. Senti, mi dicevi che comunque, nonostante tutto, sono al lavoro su Animal Farm, quindi stanno lavorando al momento. Stanno lavorando in continuo. Freedom Theater non è soltanto un teatro stabile, ma è anche un'associazione che si occupa di insegnare ai ragazzi a diventare, ad esempio, macchinisti, a diventare tecnici di sala, tecnici di palcoscenico, a diventare fotografi. Cercano di dare un'alternativa alla possibilità di seguire la jihad nella maniera più violenta possibile, quindi cercano di convogliare la violenza in qualcosa di artistico, in un messaggio. Parlavamo proprio stamattina del fatto che in questi anni delle persone che hanno iniziato con il Freedom Theater poi sono andate a finire, si sono fatte saltare in aria, perché è normale, loro stessi vivono un problema con la gente del posto, con i loro, con la gente del campo, perché tra di loro chiaramente ci sono delle falange estremiste che forse non approvano, quindi si tratta di difenderle non soltanto dalla parte dall'altra parte, ma anche dalle radici culturali che appartengono a loro stessi e che gli impediscono di fatto di uscire fuori da questa cosa. Questo è il metodo giusto, il metodo della riabilitazione sociale, di cercare sì, di usare sì, il sì. teatro, l'arte in generale, come uno strumento che possa essere una sorta di detonatore, l'unica cosa possibile da fare adesso. Sì, sì, sì. Senti, in chiusura, gli spettacoli che finora hanno messo in piedi, che caratteristiche hanno? Un po' già l'hai anticipato parlando dei clown che insomma fanno spettacoli con l'esercito accanto. Ecco, qual è la caratteristica fondante dei lavori del Il lavoro del Freedom Theater si basa soprattutto sull'espressione corporea sì. e soprattutto quel poco linguaggio che possono usare è un linguaggio gibril, cioè un linguaggio nascosto, perché devono impedire alla parola di poter essere individuata. quello che fanno è un lavoro attento, molto molto molto interessante sul corpo, su come fare in modo, per esempio, questi ragazzi che arrivano a fare laboratori e la prima cosa che cercano di fare quando vengono messi in condizione di potersi liberare, quella di alzare le mani, quella di essere violenti, già solo il fatto di pensare di spostare proprio il baricentro, di utilizzare la violenza ma magari sulla scena per comunicare semplicemente uno stato d'animo, questa è già, non voglio neanche dire terapia, ma è installare un'altra possibilità. Sì. E queste persone ci credono davvero. Sì. È stato fatto di tutto, sono stati fatti da spettacoli degli autori più classici fino ad arrivare a testi contemporanei, testi che hanno scritto loro stessi, testi che hanno scritto in base a quello che hanno visto. Quindi insomma la cosa è molto molto molto florida, c'è un sacco di fermento e questa cosa fa chiaramente paura. Sì. Allora, in chiusura diamo nuovamente i riferimenti internet per chi volesse saperne di più e soprattutto appoggiare questa campagna per la liberazione. Sì, dunque, innanzitutto se andate sul sito del teatro www.thefreedomtheater.org potete trovare tutti i documenti, tutti i video, tutte le petizioni necessarie. Ad ogni modo, se cercate su Google petizioni per Nabil e Zakaria, potete trovare tutte e due le petizioni che sono partite dal Portogallo e che abbiamo fatto partire noi dall'Italia. Oppure se siete su Facebook cercate il gruppo, un gruppo su Facebook che si chiama Freedom for Nabil and Zakaria.